Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo di scuola, parliamo della nuova scuola, della scuola che sta scoprendo i problemi, i benefici, le opportunità dell'informatica, delle nuove tecnologie, dei nuovi sistemi di apprendimento. E ringraziamo Adolfo Scotto Di Luzio. Buonasera, professor Scotto Di Luzio. Buonasera. Di essere con noi. Adolfo Scotto Di Luzio ha scritto il libro Senza educazione, i rischi della scuola 2.0, edito dal Mulino. Quindi è un libro che è centrato soprattutto sulle nuove tecnologie e si fa una domanda: le nuove tecnologie fanno bene alla scuola? La risposta è sì e no. In questo senso però Adolfo Scotto Di Luzio è molto critico su come sono state adottate le nuove tecnologie sui risultati, ammesso che si possano conoscere i risultati che hanno avuto questi nuovi esperimenti. È così, professor Scotto Di Luzio? Sì, è così, perché questi cosiddetti esperimenti non sono stati monitorati in maniera rigorosa, perché ormai esiste una letteratura internazionale che avanza moltissimi dubbi circa la bontà di queste tecnologie e delle loro ricadute, soprattutto sul piano didattico concreto, cioè sul piano degli apprendimenti, che è la cosa più importante della scuola. Quello che è venuto fuori anche recentemente da un rapporto dell'OCSE è che l'impiego massiccio delle nuove tecnologie pregiudica situazioni scolastiche che sono già precarie di per sé. Ecco, ma in questo senso è avvenuto questa incapacità di usare i nuovi strumenti perché il corpo docente non era preparato, perché anche la formazione dei docenti è estremamente importante in questa prospettiva, o perché mancano appunto dei programmi, dei progetti concreti? Ci si è limitati a dare dei tablet o delle lavagne elettroniche nelle scuole? Il caso italiano è diverso, perché è un caso più arretrato e di conseguenza sicuramente mancano gli elementi che lei prima rilevava. C'è però a livello internazionale ormai un certo scetticismo, perché anche lì dove queste tecnologie sono state applicate sulla base di sperimentazioni molto rigorose, si è visto che soprattutto sul piano degli apprendimenti alfabetici e soprattutto matematici l'impiego delle tecnologie non produce effetti significativi, e laddove si parte da condizioni di svantaggio questo ingresso delle tecnologie alimenta e accresce gli elementi di svantaggio. Ecco, ma in questa prospettiva dobbiamo tener conto che le tecnologie sono comunque diffuse, i ragazzi hanno a casa i tablet, gli smartphone, i computer, quindi la scuola dovrebbe avere un ruolo di far capire ai ragazzi come utilizzare questi strumenti, che peraltro poi faranno parte fondamentale del loro impegno quando dovranno andare sul mondo del lavoro. Sì, ci sono molte cose in questa domanda e che vanno tenute distinte, perché sono piani differenti. Innanzitutto è la dimestichezza con le tecnologie che appartiene, diciamo così, alle forme di vita, cioè agli stili, ai consumi, ai comportamenti diffusi. Cosa diversa è naturalmente la scuola, che è un ambiente formale dove in gioco c'è la formazione di una persona, la crescita di una persona. Questa crescita è, diciamo così, sostenuta, alimentata da apporti, diciamo, simbolici, culturali, complessi ed elaborati. Riguardo poi naturalmente al transito scuola-lavoro, che è la questione oggi più scottante, naturalmente l'essere destinati a lavorare in un ambiente altamente tecnologizzato sembrerebbe di spingere ad un uso delle tecnologie fin dai tempi della scuola. In realtà gli studenti che entrano nel mercato del lavoro hanno bisogno di una preparazione culturale solida, perché è quello che gli permetterà anche di usare le tecnologie in forme consapevoli. In realtà noi stiamo pregiudicando, come dire, lo stare in maniera competente nella sfera pubblica dei giovani, privandoli di un nutrimento culturale solido. Ecco, in questa prospettiva si può dire che il suo libro in un certo senso dice: vabbè, i giovani in qualche modo sono già competenti, sono nativi digitali, come si dice, quindi hanno le capacità di utilizzare questi strumenti. Il compito della scuola dovrebbe essere addirittura quella di rivalutare il libro, di rivalutare i modi classici del sapere, i modi classici di trasmissione della cultura. Quindi un compito forse diverso, per non dire contrario a quello che comunemente si pensa di una scuola che deve essere ipertecnologica? Guardi, io credo che l'uso creativo delle tecnologie è essenzialmente un fenomeno legato al linguaggio. In fondo sono tecnologie di carattere cognitivo e quindi richiedono essenzialmente da parte di chi le usa una ricchezza linguistica. Allora, come si interviene su questo aspetto? Intervenendo sulle tecnologie o intervenendo sul linguaggio? Io credo che si interviene coltivando il linguaggio delle persone. Quindi in questa prospettiva coltivare il linguaggio vuol dire però rivalutare il libro, rivalutare il dialogo, rivalutare forme classiche come quelle del tema o del riassunto che forse in una scuola tecnologica possono avere meno spazio. Sono cose naturalmente che vanno tenute distinte. Io credo che vada, diciamo così, rivalutato un approccio critico alla conoscenza. Naturalmente l'approccio critico alla conoscenza è in funzione della sofisticatezza degli strumenti intellettuali che le persone hanno a disposizione. Più sono sofisticati gli strumenti intellettuali che gli studenti hanno a disposizione, più il loro modo di intendere il mondo si fa complesso e sofisticato. Ecco, in questa prospettiva appunto adesso sono in corso alcune sperimentazioni. Qual è lo stato dell'arte della scuola italiana? Lei insegna pedagogia all'Università di Bergamo, appunto in questo libro illustra come sono stati sviluppati alcuni processi, appunto alcuni progetti di ingresso delle tecnologie della scuola. Come si sta andando avanti? Quali sono i passi che la scuola italiana sta facendo e quali sono i pericoli che la scuola deve evitare e che in un certo senso i genitori possono in qualche modo avere un'influenza sulla scuola, perché comunque i genitori devono avere un rapporto privilegiato con l'istituzione che accoglie e che forma i loro figli. Quindi in questo senso che attenzioni particolari si può avere in questa fase di sviluppo appunto di una scuola che cerca una propria dimensione nuova di fronte alle nuove tecnologie? Professor Adolfo Scotto Di Luzio. Sì, io partirei proprio da quest'ultima parte della sua domanda, e cioè dal ruolo delle famiglie e dal ruolo dei genitori, perché la cosa che va detta è che l'uso che i giovani fanno delle tecnologie è di tipo consumistico, cioè i giovani usano lo smartphone, il tablet per divertirsi, per parlare con gli amici, per navigare in rete. Ecco, allora il punto è che forse le famiglie dovrebbero sorvegliare questa esposizione eccessiva dei loro figli alle merci. Il tablet è una merce e allora bisognerebbe tutelare i giovani da questa eccessiva esposizione consumistica. Per quanto riguarda invece, diciamo sì, la direzione verso la quale è avviato lo sviluppo del sistema scolastico italiano, naturalmente il Ministero della Pubblica Istruzione insiste moltissimo su questa digitalizzazione delle scuole. Nel libro il primo capitolo è dedicato a una di queste sperimentazioni e devo dire che i risultati sono abbastanza sconfortanti. Se uno leggesse con attenzione i rapporti di valutazione di questi esperimenti, capirebbe che questi esperimenti sono fatti in maniera molto approssimativa e quello che si consegue attraverso queste sperimentazioni non lascia, diciamo così, ben sperare. Ecco, ma in questo senso sono sperimentazioni però necessarie, direi doverose, dobbiamo comunque guardare avanti. Che cosa manca? Che cosa è mancato in queste sperimentazioni? Guardare, innanzitutto è mancato, diciamo così, un impianto rigoroso della sperimentazione, cioè la sperimentazione è stata fatta in modo tale che da non poter produrre risultati attendibili, e questo lo dicono in maniera piuttosto sconfortata anche le istituzioni che sono state incaricate della valutazione del progetto. Mi riferisco in maniera particolare al progetto Classi 2.0, che è stato un progetto fatto nel 2009, che è andato avanti fino al 2012 e ha prodotto un rapporto consegnato nel 2014 che contiene, diciamo sì, gli esiti piuttosto deludenti. Guardare avanti che cosa vuol dire? Guardare avanti significa porsi seriamente il problema di come si coltiva l'intelligenza di un paese. E allora io credo che rispetto a questo obiettivo, che è un obiettivo importantissimo, strategico sul terreno della competizione internazionale, l'idea di poter sostituire così allegramente i libri con il tablet significa non avere molto chiara che cosa vuol dire formare l'intelligenza collettiva di una nazione. Ecco, ma in questa prospettiva il compito dei docenti è fondamentale. I docenti che si confrontano con dei giovani che sono nativi digitali, che parlano forse un altro linguaggio, c'è un problema di fondo, che magari non dico di superiorità o di inferiorità, ma proprio di diversità anche antropologica in un certo senso. E questo la scuola deve comunque risolverlo. Sì, la vita ha sempre parlato un linguaggio diverso da quello della scuola. È sempre stato così in una società di analfabetismo di massa, come erano le società europee di 200-300 anni fa, quando si impiantò la scuola dovette fare i conti con una vita, con una realtà esterna che parlava un linguaggio totalmente diverso. Quindi da questo punto di vista la scuola è sempre un luogo di un conflitto. Il problema è che la scuola deve credere in quello che insegna, e quello che si insegna ha a che fare con la formazione intellettuale. Ecco questo. Allora bisogna mettersi d'accordo su quali sono gli strumenti per la formazione intellettuale. Io non credo che le nuove tecnologie servano a formare la mente delle persone. Certo. Non è solo la pratica, ma è la cultura, in fondo, quello che conta, che poi aiuta indubbiamente anche sul fronte della pratica. Grazie al professor Adolfo Scotto Di Luzio di essere stato con noi. Adolfo Scotto Di Luzio insegna storia della pedagogia all'Università di Bergamo, ha scritto il libro Senza educazione, rischi della scuola 2.0, edito dal Mulino, sono 142 pagine per 12 euro. Grazie anche a quanti ci hanno ascoltato, a Luca Cremonese in redazione e a Filippo Reggi in regia. Vi ricordo che l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.